America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. La settimana scorsa vi ho raccontato di questo viaggio, anzi di questa corsa americana di Renzi, devo dire molto interessante, una corsa fra attività italiane in varie località americane, dal Nevada, Chicago, a Boston, però abbiamo visto anche molte realtà americane. Ecco, e dunque dobbiamo cercare, secondo me, di capire un pochino come alcune dinamiche della globalizzazione si stanno muovendo, dinamiche anche competitive. Abbiamo visto anche gli interventi ieri del governo americano per evitare queste operazioni di inversion, queste fusioni tra società che vogliono evitare le tasse. E dunque ne approfitto per farvi sentire una intervista che ho fatto appunto la settimana scorsa con Sergio Marchionne, amministratore delegato di FCA, Fiat Chrysler Automobile, cercando di affrontare proprio queste tematiche. Ecco, parlando delle macchine utensili, questi produttori italiani di macchine utensili, voi come FCA siete un cliente importante per loro. Spesso sono piccole aziende che però riescono a competere in contesti di nicchia a livello globale. Ecco, guardando al futuro, c'è un futuro molto competitivo. Lei che consiglio può dare dal suo punto di vista e da cliente a queste piccole aziende italiane, al sistema Italia, questa spina dorsale del sistema Italia? Il passo avanti che è stato fatto dai piccoli che si sono continuamente rinnovati, cosa che la grande industria è stata incapace di fare per molto tempo perché è rimasta ingarbugliata in un sistema amministrativo per tantissime ragioni che poi ne parliamo oggi. Credo una delle cose che siamo riusciti a fare noi in FCA è appunto sbloccare il processo creativo, è una cosa che credo bisognerebbe farlo ripetere a tutti quanti, perché è veramente il grande futuro del paese. E quando vediamo l'abilità di questa gente in 30-40 anni di creare realtà che ne abbiano 400 milioni di fatturato, 300, 200, non importa, sono partiti dal nulla e hanno creato una credibilità incredibile a livello internazionale, il 90% di quello che producono va al di fuori del paese. Questa gente che è partita con una valigetta in mano a farsi conoscere in tutto il mondo, no? Se riusciamo ad ampliare quella forza là, cioè contro la Germania l'Italia vincerebbe, no? Semplicemente dal punto di vista di creatività, di abilità di crescere. E l'ostacolo qual è? Qua c'è un ostacolo ancora che resta, un ostacolo culturale, qualcuno che resiste. C'è una insoddisfazione della classe media, la classe media che si sente tagliata fuori, sembra essere un problema. Lo condivide? Che cosa? È un discorso che ho cacciato avanti da anni. Il grande problema, il problema dell'American Dream, che adesso è scomparso, no? La diversità nei livelli economici che esiste, no? Tra la classe che è veramente ricca è diventato troppo largo e non, adesso non gliela vendi più al tizio normale dicendo guarda se lavori duro veramente puoi diventare uno di quelli, ormai non ci crede più nessuno, no? Perché più andiamo avanti più andiamo a creare questi estremi, quindi c'è qualcosa di sbagliato nella maniera in cui il benessere economico viene distribuito. E quindi? Non possono, quegli eccessi là non possono esistere. Ecco, per me una delle tappe più interessanti a Chicago è stata la visita al Fermilab, una chiacchierata tra l'altro che ho fatto con Carlo Rubbia, premio Nobel per la fisica 1984, per aver scoperto i neutrini al Gran Sasso. Ecco, ora questi esperimenti sono invece condotti al Fermilab e Rubbia ha lanciato un allarme. Non si investe abbastanza perché l'Italia mantenga le sue eccellenze nella ricerca di base. Ecco, ho chiesto anche a Marchionne cosa pensa di questo allarme lanciato da Rubbia. Lo condivido, ma ci sono delle cose che sono fondamentalmente differenti tra l'Italia e questo paese, no? La maggior parte, se lei guarda il livello di ricerca e quanto del finanziamento delle università americane viene da fondi creati dai privati. Questo è un fenomeno che non esiste in Italia, no? Da nessuna parte. Forse è anche impossibile farlo, i privati non possono donare. Ma non lo so se è impossibile, no? Si è creato qua una struttura che ha facilitato la creazione di questa fondazione dal punto di vista fiscale, in una maniera molto precisa, no? Uno lascia soldi a sgravi fiscali di una certa maniera. Non è che gli americani siano più generosi degli italiani, Cerchiamo di copiare le cose buone di questo paese, aiuterebbe. Ma e quindi per esempio quando Trump propone di negoziare molto duramente con le controparti commerciali di farsi ripagare, di condividere per esempio spese per la divisa, per la difesa e così via, così via. Le parti commerciali sarebbero? Le controparti commerciali, per esempio con la Cina. Di altri paesi. Sì, di altri paesi, sì, perché c'è un'esportazione di lavoro americano all'estero, aziende che non rimpatriano. È la scelta di Trump. Ecco, ma per esempio su questo fatto del non rimpatriare i profitti all'estero, ci sono miliardi di dollari, trillions of dollars. È un beccato, è un discorso molto molto delicato. Perché la questione della tassazione a livello globale di profitti generati al di fuori di una giurisdizione è un concetto che lei può parlare con qualsiasi concetto fiscalisti che darebbero delle risposte diverse. Non c'è una giustizia economica nel tassare quel rimpatrio di profitti dall'estero. Non lo può giustificare, semplicemente che un'azienda ha il cosiddetto headquarter qui in America, non giustifica la tassazione di dove produce altrove, quei risultati là sono stati tassati in altre giurisdizioni. Lui sta parlando della tassazione dei profitti che stanno al di fuori del sistema americano. Sì, che è uno degli elementi di cui parla Trump. Lei dice, vabbè, Trump può dire quello che vuole, però quello che dice Trump su questo aspetto, per esempio, di negoziato con altri paesi, con la Cina, eccetera, ha in qualche modo toccato un nervo esposto nella popolazione americana. Quindi prima si parlava di commerci. Ecco, c'è un rischio, secondo lei, che questo paese, con Trump e Sanders, perché sono due opposti che poi si toccano, possa fare un passo indietro dal punto di vista di essere leader nella liberalizzazione, nei commerci, nel libero mercato? Non ne ho la minima idea. Non ho la minima idea, perché credo bisogna riuscire a inquadrare questi discorsi nell'ambito di una campagna elettorale. La validità di quello che viene detto in questi contesti qua, fino a quando non viene confrontato con il fabbisogno quotidiano di gestione del paese, quel confronto là, quando lo farà, andrà a modificare alcuni punti di vista che vengono espressi. Ve lo dico con tutta onestà. Stare al di fuori del sistema è molto facile criticarlo e immaginarsi un mondo diverso. Quando ci entri dentro, poi lo devi gestire e le idee cambiano. Quindi io non credo che tutto quello che viene detto adesso verrà tradotto in cosiddetto policy americana. Ecco, alla fine della chiacchierata con Marchionne si è parlato anche di auto elettriche, ma soprattutto delle auto robotiche, quelle tipo quella di Google, quelle auto che guidano da sole. Le avrete viste in mille fotografie, in mille video. Magari può anche esserci un passeggero a bordo, però il passeggero è come se si fa portare, senza autista. E dunque ho chiesto se fra 4-5 anni queste automobili saranno disponibili sul mercato. Ecco, Marchionne mi dà una risposta spiritosa, diciamo a sorpresa, personalizzata, e che, premetto, non condivido come risposta, e vedrete perché. Garantito che ci saranno le macchine, che delle vetture che in alcune circostanze si guideranno da sole, col pilota dentro, con la possibilità di intervento, cioè l'autista deve poter prendere il controllo della vettura, ma si guideranno da sole. Quello non è un problema. E voi state lavorando anche a macchine di questo ovviamente genere? Ovviamente. Certamente. Per te, Mario, senza anche questo, guarda. Poi ti ho visto guidare, tu ne hai bisogno. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @ Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, insomma, abbiamo fatto una lunga chiacchierata con Marchionne, punta molto Marchionne sulla Jeep, e dunque dedichiamo alla Jeep, gli obiettivi di Marchionne, la canzone di oggi, Renegades, Ex Ambassadors, che poi è la canzone usata per lo spot della Jeep Renegade. Run away. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going!